venghino, signori, venghino a vedere il più incredibile spettacolo. Ed ora la nostra attrazione principale. Ecco a voi. Nexus. Ok, questa volta forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo, vediamo, vediamo. Dove sono le basi? Eccole qua. Allora. Oh! Dopo incredibilmente un sacco di tempo, rieccomi qua dietro al microfono di Into the Nexus e spero che questa volta mi si senta anche. Simone, se ci sei, da batti un colpo, per cortesia. Ok, la chat è un casino, questo non lo sapevo, vedi, per esempio. Vabbè, non puoi entrare come ospite, penso di sì, non dovrebbe esserci problema. Vabbè, comunque, volevo, prima ve l'ho già fatto vedere, adesso per chi non l'avesse visto prima lo faccio rivedere con anche tanto di spiegazione. Mi sono fatto un piccolo pop filter artigianale seguendo le istruzioni che si trovano in rete qua e là. E eccolo qui. Fatto con una calza rotta della mia moglie e con un pezzo di fil di ferro, sostanzialmente una stampella di quelle fatte di fil di ferro. Eccoci qua di nuovo davanti ai microfoni, al microfono dopo tanto tempo. Sono impacciato, sono imbarazzato, non c'è la chat integrata nell'applicazione di broadcasting, per cui sto cercando, salto da una parte all'altra cercando di capire chi è online, chi sta seguendo. Sembrerebbe ci sia solo Simone in questo momento, chi twitta, chi non twitta, è un macello. Vabbè, insomma, vedremo di cavarcela per questa prima esperienza. E benvenuti Into the Nexus Live. Io mi sono preparato una scaletta, ma ovviamente, visti i problemi, mi sta già saltando tutto quanto. Non capisco più un accidente di niente. E andiamo a cercare... Dove cazzo è? È sparita! Non c'è più la scaletta! Ah! Come faccio? Aiuto! Elementi per tipo, documenti, datemi documenti, voglio tutti i miei documenti. Documenti? Yuhu! Ehi! Documenti? No, stiamo scherzando, vero? Dov'è? Non esiste! Non esiste che non c'è la mia... Che non c'è più la mia... No, la scaletta, ma dai, sì, sono io, è inutile che mi chiedi ancora la password, maledetto Google Docs. No, maledizione, la scaletta è sparita, non ho più la scaletta, non so più che dire. Ah no, eccola qua, ok, ce la facciamo forse. Ah, ok, benissimo. Stavo dicendo, vedi subito, mi stavo dimenticando la novità più grande. Qua Google Docs ovviamente non vuole funzionare come si deve. Nuova stagione, Into the Nexus va live e ecco a voi. Qui che cosa sta succedendo? Ho tipo clipping a manetta sul registratore esterno che sto usando per registrare l'audio. E adesso vediamo se... Ecco, tipo sì, forse ce la facciamo. Due. Ok, mamma mia quanto devo stare basso. Ok, quindi vabbè. Anche l'audio di questa puntata sarà un macello da fare. D'altronde, è la prima volta. E come avete sentito, è stata... mi sono messo lì un paio d'ore. Ho fatto una nuova intro per Into the Nexus. Non so se si, sia sentita bene, però se non si è sentita bene ve la farò sentire la prossima volta. Oh, pace. qui siamo veramente incasinatissimi. E poi volevo dare una notizia. Io sono stato veramente molto felice di trovare tutta una serie di commenti a un post, perché poi alla fine ho fatto un post sul mio blog riguardo al fatto che vivo in Corea, e mi sono arrivate valangate di commenti di persone, di ragazzi italiani più o meno giovani che vogliono venire a vivere in Corea o che devono venire a, devono venire a vivere in Corea per motivi di lavoro. E intanto ho Edo di Siejue a caso che mi dice che è online e poi non è online. Comunque, se ti va di darmi una mano a vedere se tutto funziona, ecco. E stavo dicendo, è stato probabilmente il post più commentato in assoluto sul mio blog. E quindi ho deciso di dare seguito a questa cosa, in realtà con un po' di ritardo. L'idea mi era venuta molto prima, ma per ragioni di tempo non ce l'ho fatta. E ho messo su un forum dedicato alle persone, per l'appunto agli italiani che abbiano interesse alla Corea. Il forum si trova all'indirizzo www.italia-corea.net. Poi più avanti ci sarà anche qualche sistema di gestione dei contenuti. Purtroppo non ho avuto tempo di organizzare dei contenuti decenti. E cliccando sulla bandiera o sul link del forum si entra nel forum, per l'appunto. Tutto questo quando poi ho scoperto che una delle persone che mi aveva contattato all'epoca, quando gli ho dato questa notizia, mi ha poi detto: sì, Edo, dimmi, vedi un tipo con gli occhiali, ma mi senti anche o mi vedi e basta? Sì, ho capito, perfetto, mi senti, l'importante è quello. Benissimo, allora sappiamo che sta funzionando tutto più o meno, tranne la mia testa. E comunque non ho i capelli neri, anche se sembrano neri in webcam. I miei capelli sono rossicci. E stavo dicendo che poi una delle persone che per l'appunto mi ha contattato mi ha anche detto, dice che si sente bassino, il Simone Pizzi. Quindi vediamo di tirare un po' sull'output. Adesso vediamo se si sente meglio. Ok, qua siamo continuamente alla ricerca di... È che se tiro su da una parte si sente bene da una parte, poi però mi clippa dall'altra. È un macello. Capelli castani. Vabbè. Allora, comunque, ho scoperto che quindi esisteva già un altro sito che è stato aperto da uno studente della Ca' Foscari. Vi ricorda qualcosa, studente della Ca' Foscari? Vi ricorda qualcuno più che altro? Sio, ecco. Non so se c'entri qualcosa con Sio, se sia un conoscente di Sio. Fatto sta che sto tizio, che si chiama Davide Giovanni, non lo so, ha aperto un sito che si chiama Corea Italia. Corea-italia.com è un blog fatto con WordPress e ci sono anche delle interessanti lezioni di coreano nel caso qualcuno per appunto volesse imparare la lingua e cercasse dei riferimenti online, che sono molto difficili da trovare, devo dire. E quindi niente, sono partito con questa nuova esperienza. Per il momento il forum è vuoto, ho solamente una iscrizione oltre a quella di un amico, ma speriamo che le cose si movimentino presto e che si crei una comunità vitale, per l'appunto, intorno a questa, a questo mio nuovo progetto. Va bene, la scaletta io me la sono preparata per gli argomenti, ma per la musica assolutamente no, quindi sarà musica a caso. E allora andiamo immediatamente a cercare un pezzo. In realtà ne ho ascoltata tante e ce n'è tanta bella. Però in questo momento non mi ricordo assolutamente che cosa ho ascoltato e che cosa c'è di bello. Sì, sì, a caso, Edo, a caso. Proprio a caso. Totalmente a caso, completamente a caso. E io direi di partire subito con qualcosa di poco convenzionale, se vogliamo. E cioè qualche pezzo di musica di sola chitarra in finger picking. Il tipo si chiama Frank Harper, musica da Jamendo sempre, e non è l'unica cosa che fa, è un artista abbastanza eclettico, però mi ha colpito questa particolarità, questo suo album di 4 pezzi in fingerstyle, e quindi ecco a voi. Ah, maledizione, è andato, suppongo sia andato via l'audio per un attimo, vero? O mi sbaglio? Ok, mi tocca fare così. Vabbè, non vi siete persi molti, via, il pezzo è sempre questo. Fatti versi. E allora eccoci qua, il signor Frank Harper continua a strimpellare. Benissimo, e questo era Rag for Richie di Frank Harper. Adesso vediamo se riesco anche a far sparire la cazzo di immagine. Oh, rieccoci qua, tutti soli soletti, eh? Che bello. Sì, sì, sì. Scommetto che vi piace un sacco. Allora, vediamo di tornare alla scaletta e di cercare il secondo argomento. Ah, ecco, sì, in realtà sono due argomenti, tra virgolette, in uno. Non proprio in uno, ma comunque in qualche modo collegati. Sicuramente molti di voi sapranno quello che è successo. Ne hanno parlato anche gli amici Pizzini? Io non so nemmeno come... Mi confondo, uno è Pizza, l'altro è Pizzi, che come si chiama? Vabbè, comunque, insomma... Ne hanno parlato su di tutto un podcast Simone Pizzi e Michela Di Paola, di cui anch'io incredibilmente ricordo il nome. E si tratta dell'assalto, tra virgolette. Vai, vai, Edo, ci si sente dopo a portare la macchina dell'elettrauto. Sì, sì. E stavo dicendo... Ne hanno parlato anche loro su di tutto un podcast, e si tratta dell'assalto dei marine israeliani alla flotta di navi turche che erano andate, o quantomeno volevano, attraccare a Gaza per portare aiuti umanitari. Ora, sul fatto che su quelle barche potessero esserci anche delle persone non proprio pacifiste, mettiamola così. Vediamo se riesco anche a ritirare sulle basi, visto che me ne stavo scordando di nuovo. Questo non lo so, cioè è molto probabile, anche visto come hanno reagito all'abordaggio da parte dei marine israeliani. Però rimane il fatto che l'esercito israeliano ha compiuto un'azione che è senza precedenti, assolutamente. Per il semplice fatto che ha agito in acque internazionali. E questo equivale ad una dichiarazione di guerra, secondo quelle che sono i comuni intendimenti tra nazioni. Ha agito in acque internazionali, ha agito prima che le barche turche forzassero il blocco in alcun modo, anche se avevano ripetutamente dichiarato di voler attraccare a Gaza e non da un'altra parte. Questo non significa che poi avrebbero veramente forzato il blocco, e comunque la marina israeliana era riuscita più di una volta a portare al porto di Ashdod altre navi di per l'appunto di attivisti per la pace, senza fare abbordaggi di alcun tipo. Semplicemente li scortavano forzosamente fino al porto di Ashdod, e poi lì le navi venivano svuotate, il carico veniva esaminato, quello che veniva lasciato passare, lo sappiamo tutti, è il minimo proprio, anche cose essenziali per la costruzione, per la ricostruzione di un paese distrutto come Gaza, spesso non vengono fatti passare, il cemento per esempio, cose del genere. E a tale proposito, e quindi insomma, ecco, questa volta mi sembra che Israele abbia proprio esagerato, e ovviamente poi vabbè, i nostri rappresentanti ufficiali, come al solito, hanno detto cazzate su cazzate, ma io non so veramente più come possa la comunità internazionale diciamo avere fiducia, mantenere il sorriso di fronte a questa dimostrazione palese di forza e di insofferenza da parte di uno Stato che è lì per non si sa bene quale ragione, nel senso che lo Stato di Israele è uno Stato pianificato a tavolino. Questi qui hanno detto, ehi, sai che si sono svegliati, no, gli ebrei, si sono svegliati un giorno, hanno detto, ah, cazzo, ci hanno ammazzato in tanti. Adesso ci siamo arrabbiati, vogliamo tornare nella nostra terra, come se quella terra fosse loro semplicemente per il fatto che c'è scritto sulla Bibbia. E hanno detto, allora noi torniamo qua. Quel territorio all'epoca era terra di nessuno, e così le Nazioni Unite hanno deciso che lì ci sarebbe stato Israele, fregandosene altamente della popolazione, quindi della popolazione palestinese che viveva lì già da secoli, e che al contrario di questo piccolo gruppo di israeliani non se n'è mai andata, è rimasta lì. Nota bene che poi Israele non vuol dire necessariamente ebrei, nel senso che poi gli ebrei nel mondo sono tanti di più, e quindi la coincidenza che spesso si tende a fare tra Stato di Israele e ebrei è completamente sbagliata, e tanti ebrei non sono nemmeno d'accordo con la politica adottata dallo Stato di Israele. Ma comunque, siamo nelle assurdità dell'epoca moderna. Io spero che, insomma, la situazione si risolva quanto prima. Avevo anche letto un articolo di un reporter danese, credo, se non ricordo male, che diceva che, insomma, tutto sommato, nella striscia di Gaza non si stava poi così male, non si moriva di fame, e faceva vedere che effettivamente nei mercati si trovava frutta, si trovava verdura, i generi alimentari non mancavano. Nello stesso articolo però proprio lui stesso ricordava che facendo le interviste con i gestori di questi negozi, per l'appunto, questi qui gli dicevano: ma noi importiamo, uno dei negozianti che ha intervistato diceva: noi importiamo tutto da Israele, perché ovviamente Israele fa passare i generi alimentari, però li fa passare controllando il mercato. L'altro gli diceva: noi non importiamo da Israele o importiamo poco da Israele, perché se importassimo tutto da Israele la gente non comprerebbe, perché i prezzi sono troppo alti, e quindi facciamo passare il più possibile per i tunnel egiziani. Quindi facciamo soprattutto commercio di contrabbando, perché la gente è povera e non c'è soldi per comprarli. Quindi il fatto che Israele sia così buono nei confronti dei palestinesi è un'altra emerita cazzata. E l'altra cosa è che si riaggancia vagamente al tema Israele, Israele-Palestina, è quello che è successo a Roma un paio di giorni fa, e cioè la carica della polizia su i protestanti dell'Aquila che sono andati a Roma semplicemente per far sentire la propria voce, perché qua ci hanno raccontato un sacco di cazzate, lo sappiamo tutto. Lo sappiamo tutti, no? Che l'Aquila non è stata ricostruita. È stato tirato fuori per l'ennesima volta il piano della New Town, come ama dire Berlusconi. Quindi è stata costruita un'altra città in mezzo al nulla, un altro polo abitativo in mezzo al nulla, sbattendosi nel cazzo della città vecchia, che è ancora completamente in rovina. E adesso stanno nascendo centri commerciali tutto intorno, no? Quindi è tutto fatto apposta per soddisfare una certa classe di persone che sinceramente potrebbero anche andarsene a fanculo. Comunque, siccome non dovete credere a quello che dico io vi passo un servizio che ho trovato su YouTube. E è un insieme, un collage di immagini che hanno fatto il giro della rete, per l'appunto, e anche di musica che è stata scelta dall'autore del video. Ok, vediamo se riesco a illuminarmi un pochettino meglio. Dopo, wow, sì, sono super sudato, mi vedete benissimo. E... Allora, ok, bene, godetevi questo video, mi pare siano 8 minuti o una cosa del genere. Ehi, video, parti! Vengono qui a ribellarsi a una schiavitù perché viviamo nei campi. Io un anno e mezzo che vivo in un camper, questa è la mia colpa? Va bene, ho colpa di vivere in un camper. Scusate se sono terremotato. Dopo il sangue di 309 aquilani, quest'altro serviva, lo sappiamo, va bene. Non c'è problema. Sì, che avevo in testa. Il sangue che avevo in testa è quello che adesso abbiamo capito, perché non si riusciva. Quattro polizia, carabinieri, credo, ho preso 4-5 manganellate solo perché ci vogliamo avvicinare al Parlamento. A chiedere giustizia per gli aquilani, la ricostruzione, l'abolizione delle tasse, non vogliamo niente di più degli altri terremotati, niente di più. Io vorrei una casa, vivo in un camper, ma va bene, non la voglio, datela agli anziani e bambini, ma almeno datela. Io vivo volentieri in un camper senza corrente, senza doccia, non me ne frega niente, almeno per gli altri, almeno per gli altri. Andiamo, non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più. E infatti io continuerò, mi hanno detto venire in ospedale, non ci vado. Però chiediamo ai mass media, chiediamo onestà, cioè cominciate veramente a rappresentare quello che è il terremoto all'Aquila. Siamo senza casa, abbiamo perso casa, parenti, abbiamo perso tutto, ci hanno pigliato per il culo, ma non agli aquilani, vi hanno preso per il culo a tutti gli italiani, siete stati presi per il culo, gli italiani sono stati presi per il culo da un gruppo di delinquenti seduti a ai mass media, chiediamo onestà, cioè cominciate veramente a rappresentare quello che è il terremoto all'Aquila. Chiediamo ai mass media, chiediamo onestà, cioè cominciate veramente a rappresentare quello che è il terremoto all'Aquila. Chiediamo ai mass media, chiediamo onestà, cioè cominciate veramente a rappresentare quello che è il terremoto all'Aquila. Lodo Alfano, nota del Quirinale su voci di un emendamento PD per garantire impunità a Napolitano, calunnie, Colle estraneo. Vertice tra Berlusconi e lo Stato Maggiore del PDL su intercettazioni, manovra e rapporti interni, Premier mai correnti nel PDL. Nel primo trimestre il PIL europeo cresce dello 0,2%, Italia sopra la media, meglio di Francia, Germania e Inghilterra. Conosciuti al fisco, scoperta Lodi evasione fiscale per 30 milioni e false fatturazioni per 200 milioni. I terremotati vengono qui a ribellarsi a una schiavitù perché viviamo nei campi. Io non è un anno e mezzo che vivo in un camper, questa è la mia colpa? Va bene, ho colpa di vivere in un camper. Scusate se sono terremotato. Dopo il sangue di 309 aquilani, quest'altro serviva, lo sappiamo, va bene. Non c'è problema. Sì, che avevo in testa. Ah, il sangue che avevo in testa è quello qua, che adesso abbiamo capito, perché non si riusciva. Quattro polizie, carabinieri, credo, ho preso 4-5 manganellate solo perché ci vogliamo avvicinare al Parlamento. A chiedere giustizia per gli aquilani, la ricostruzione, l'abolizione delle tasse, non vogliamo niente di più degli altri terremotati, niente di più. Io vorrei una casa, vivo in un camper, non va bene, non la voglio, datela agli anziani e bambini, ma almeno datela. Io vivo volentieri in un camper senza corrente, senza doccia, non me ne frega niente, almeno per gli altri, almeno per gli altri. Andiamo, non ce la facciamo più. Non ce la faccio più. Infatti io continuerò, mi hanno detto venire in ospedale, non ci vado. Però chiediamo ai mass media, chiediamo onestà, cioè cominciate veramente a rappresentare quello che è il terremoto all'Aquila. Siamo senza casa, abbiamo perso casa, parenti, abbiamo perso tutto, ci hanno pigliato per il culo, ma non agli aquilani, vi hanno preso per il culo a tutti gli italiani, siete stati presi per il culo, gli italiani sono stati presi per il culo da un gruppo di delinquenti seduti al Parlamento. Non chiediamo ai mass media, chiediamo onestà, cioè cominciate veramente a rappresentare quello che è il terremoto all'Aquila. Chiediamo ai mass media, chiediamo onestà, cioè cominciate veramente a rappresentare quello che è il terremoto all'Aquila. Chiediamo ai mass media, chiediamo onestà, cioè cominciate veramente a rappresentare quello che è il terremoto all'Aquila. Ok, credo che fosse andato in loop il tutto quanto, il filmato, non so per quale ragione, quindi scusatemi, ma rieccoci qua, siamo di nuovo insieme, quindi ecco, come al solito, totale disinformazione italiana, la gente poi è convinta, magari se la prende anche con gli aquilani, dice, oh ma che cazzo, perché vi lamentate, no? Che cosa... avete avuto le case e tutto, sì, ma non era quello che gli aquilani volevano, senza contare che sono il numero di aquilani che hanno effettivamente avuto le case sono poi relativamente pochi. Sono pochi e dovranno restituire gli appartamenti nelle stesse condizioni in cui li hanno ricevuti, quindi hanno paura, no, di anche solo di piantare un chiodo alla parete, perché chissà che poi non debbano levarlo e ristuccare prima di ridare indietro le case. E poi non si sa che cosa succederà a quegli appartamenti, a quelle case, no? E vabbè, comunque, visto che è stato un argomento... Sì, manganellati in testa proprio. Mazziati e cornuti. Per fortuna pare che abbiano accettato di dilazionare le tasse arretrate in 10 anni invece che 2 come avevano deciso di fare. Quello è un piccolo aiuto, ma è comunque minuscolo rispetto al danno che è stato fatto. Adesso vediamo di passare un altro pezzo. Vediamo. Fatemi vedere qua la lista di musica che avevo. Ah, eccola qua, ok. Loro sono i Circa Vite. E il pezzo che adesso vado a passarvi si intitola The Tower. Quindi se riesco, ehi, su, forza, ce la puoi fare. Osti, come finisce male sto pezzo? Non me lo ricordavo. Allora, aspettate che io provo anche a fare un cambio di configurazione al volo, perché credo di aver capito cosa c'è che non va. Vediamo un attimo, Oh, tipo, vediamo se ora si sente un po' meglio, Dunque, ritorniamo su con le basi. Eccoci qua. Sì, perché ho fatto un po' di casino col mixer e mi ero attaccato all'uscita sbagliata, per cui era influenzata anche dal volume delle mie cuffie. Per uscire con un volume decente dovevo uccidermi i timpani, sostanzialmente. Spero che adesso vada un po' meglio. Effetto? Prima non c'era l'effetto? Cosa intendi per effetto? Edo mi sta dicendo che c'ho un effetto. C'è ancora l'effetto? Effetto? Effetto, effetto? Edo, c'è ancora l'effetto? Effetto? Boh, che intendi? Lo senti ancora l'eco? Sono un cantante. No, non c'è più. Ora non c'è. Se adesso faccio così, invece l'eco c'è? Vediamo cosa mi risponde Edo. Eco. Non sente più l'eco. Meraviglia. Eco. Adesso? Sì, la latenza dalla Corea non è male, eh. Poi non so dove stiano i server di Ustream, ma c'è da divertirsi. Vabbè, comunque, io non so bene che cosa fosse quell'eco, ma in ogni caso vediamo di far sparire immediatamente il mammut dei cercavite. E torniamo. Non si può fare così. Che cosa non si può fare? Oddio, oh mamma, sono arrivati 6 tweet tutti insieme. Di chi sono? Di Ale Rouge. Oddio. 33. Au! 2. Più. Ho come l'impressione che sia la piccola Elena che sta schiacciando tasti a caso. Però, ma. Sono i primi tweet di Elena. Credo. Rouge, se ci sei, batti un colpo e conferma. Ma torniamo a noi. Scaletta? A me scaletta. Di che volevo parlare? Non so se farlo, perché è un po' una rottura di coglioni, sempre la solita roba. Se parlare o no della P2. Ne vogliamo parlare della P2? Ma io direi che saltiamo la P2 a pie pari, che tanto sappiamo tutti cos'è e cosa fa. E invece torniamo, volevo parlare di economia e di finanza. Perché? Perché sono due cose diverse e è importante capirne la differenza. L'economia è qualcosa di reale, è qualcosa di anche importante. L'economia è legata alla produzione. Allora, esiste un'economia solamente se c'è un prodotto da vendere e se ci sono degli acquirenti per il prodotto. Una qualsiasi persona che studia economia vi dirà che la cosa importante quando si fa economia, per appunto si parla di economia, sono i consumatori. Se non ci sono i consumatori non c'è mercato e quindi non c'è neanche economia. Poi c'è la finanza. La finanza cos'è? La finanza è l'economia fatta sul niente, fatta sul virtuale. E nel momento in cui la finanza è stata inventata, secondo me è stata la rovina del mondo. Tutti i problemi che abbiamo avuto riguardo per esempio ai future ai cosiddetti titoli tossici, derivano dal fatto che esiste la finanza, cioè dal fatto che è possibile fare scommesse sull'andamento dei prezzi dei beni tra 10 anni, 20 anni, 30 anni, quel che è, tramite quello è anche possibile eventualmente influenzare il mercato, così come è possibile influenzare il mercato comprando e vendendo azioni in grandi quantità, tutto questo senza pagarne le conseguenze. La finanza in sé per sé non ha nessun tipo di senso. Non è che non abbia senso investire in un'attività, in un'azienda, in una società. Ha molto senso, ma ha senso solo ed esclusivamente se quell'investimento è guidato dalla ragionevole certezza che quell'azienda ci interessa. E io so che quello lì è un campo, una produzione, una ricerca che mi interessa, e investo. E quando investo i soldi ce li lascio, non è che li ritiro il giorno dopo perché i titoli sono andati su. Quindi secondo me dovremmo veramente fare qualcosa per cercare di cambiare il sistema, così non andiamo avanti. Come fare? Boh, bella domanda. Da dove partire? Non lo so. Non ho le risposte, ragazzi. Comunque, direi che è tutto per quanto riguarda economia e finanza. Io sono particolare, ragazzi, mamma mia, sono spentissimo, non so più che cosa dire, che cosa fare. Sono totalmente fuori allenamento. Allora, partiamo con un altro pezzo, visto che io sono fuori allenamento. Sempre che riesca a trovarlo, Forse. Dove cazzo sono finiti tutti i pezzi che ho scaricato? Ok. Questi mi pare facessero qualcosa come tipo francesi loro, francesi. E mi pare facessero una cosa tipo reggae, ska o giù di lì. Sì. Hop, ce la facciamo? Hop. Olè? No? Il programma ha deciso di smettere di funzionare? Picture in picture. Ok. Loro sono i Google Cluster. Giù le basi, tra poco anche giù il microfono. E vediamo se riesco a farvi sentire un pezzo interessante che si intitola Cadillac Moon. Blackberry soda for the undiscovered genius of the Mississippi Delta. Gumby, Pokey, Bigfoot, Racketeer, Rabbit. Same old, same five. Charlie Parker, Bird. Marcus Scott. Sugar Ray Robinson. Limited time only. Chewing on your gum, make your mouth taste like onion. Massimo died. Rest in peace in your Cadillac moon. Yo, gran bel pezzo, devo dire. Questi Goo Goo Cluster fanno della musica interessante. Allora, torniamo alla mia scaletta. Volevo parlare un attimo brevemente dell'intervista di Ciccio Ereddia. Io avrei detto che si pronunciasse Ereddia, mi sapeva molto più siculo che non Ereddia, però pare che sia Ereddia, di Ciccio Ereddia su Di Tutto un Podcast. E in particolar modo volevo parlare di una cosa che ha detto. Lui ha detto che non gli è stato affatto difficile, o meglio, non gli è sembrato tanto difficile quanto avrebbe pensato andarsene dall'Italia, trasferirsi, vivere in un paese diverso. E devo essere sincero, non è particolarmente difficile, credetemi. Basta un minimo di buona volontà. Quello che mi ha colpito, e che capita spesso anche a me di sentire dentro, è qualcosa che fa un po' male, è che a volte gli amici ti dicono però tu te ne sei andato, invece di fare qualcosa, di stare qui, lottare, fare qualcosa per cambiare le cose, hai preso e te ne sei andato in un posto migliore, tra virgolette. Ehi, ce la farò a togliere questa faccia, questo negrazzo dai denti bianchissimi dall'immagine? Sì? Ok. E è vero, noi ce ne siamo andati, lui in un paese che seriamente considero estremamente avanzato sotto ogni punto di vista, per quanto riguarda la vita, eccetera. E per quanto riguarda le leggi, anche l'onestà delle persone. Io sono andato in un paese che purtroppo è molto più simile all'Italia di quanto mi piacerebbe, in questo senso. E quando sono andato in Finlandia il mese scorso per una conferenza, sono rimasto non sorpreso, perché so che è così, però mi ha fatto sorridere quando la ragazza che ci stava ospitando mi fa: guarda che qua c'è stato un gigantesco scandalo poco tempo fa, perché un tizio russo, un imprenditore russo, ha cercato di corrompere un poliziotto con 100 euro. Ecco, immaginatevi voi, da noi 100 euro fanno ridere i polli. E qua, se non si parla di milioni, e anche quando si parla di milioni di euro, nessuno batte ciglio. La mafia è dentro di noi. E quindi sì, è vero, ce ne siamo andati, siamo scappati, tra virgolette, però io sono convinto che anche facendo quello che facciamo, cioè Francesco facendo il suo lavoro di giornalista e tramite il suo podcast, io tramite il mio podcast, non sono un giornalista, ma poco me ne frega, sono convinto che stiamo cercando di dare comunque il nostro contributo affinché le cose cambino, facendo conoscere notizie, fatti, leggendo sentenze, eccetera eccetera. In questo anche Edo di Siegioe a caso ha fatto un gran bel lavoro, per non parlare dell'iniziativa lanciata da quelli di Nowherecast, adottiamo la Costituzione, cioè di leggere e spiegare gli articoli della Costituzione un po' per uno. Io magari adesso me ne cercherò anche un paio da presentarvi la prossima puntata. Che dire? Io avrei voluto dire tante altre cose, ma ovviamente me le sono scordate tutte, la scaletta è più o meno finita e dovrei passare un po' di musica. Quindi che cosa vi passo? Vediamo se riesco a ritrovare qualche cosa che avevo scaricato recentemente. No, questo no. Ah, lei forse? Ok, lei è una cantante, credo spagnola, cantautrice spagnola, abbastanza abbastanza interessante, semplicemente per il fatto che no, vedi che non hai capito un accidente, brutto pezzo di stupido maledetto. Ok, ci sono, e adesso forse ce la posso fare. Ok, sì, sì, sì. Lei per l'appunto si chiama Gera, che sta per Geraldine, e è particolare perché è solamente chitarra e voce, non c'è nient'altro, ed è, non è così comune trovare due interi album, perché ne ha già pubblicati due con sola chitarra e voce. A voi, Gera. When I'm feeling down, a few chords, it can make me go happy, it can make me go crazy, or be strong. No, I've lived enough to know, words can kill you slowly, words can hurt, and everyone has a song that completes half the souls. Everyone has a place where they can run away, a reason to survive, how to keep it inside. Strong. And then tears pass me by, rain or storm. My guitar and a song, only weapons to know. A place of my own, a place of my own. Ba-da-ba. Questa era Gera per voi. Wow, le basi stanno andando su un po' troppo. E facciamola sparire immediatamente. Via, via, via, via. Via Gera. Wow. Ok. Bene. Che dire, questo primo esperimento dal vivo credo che stia giungendo rapidamente verso la sua naturale conclusione. Ecco, sì, adesso è piano piano, è sempre così, mi ricordo le cose a pezzi. Intanto ho visto una conferma di Rouge che diceva che effettivamente quelli di prima erano i tweet di Elena, E dicevo, ah sì, ecco, una peculiarità del paese in cui mi trovo è che chi videogioca qui non è ostracizzato, non è un outsider, non è un reietto. I videogiocatori sono una classe di persone estremamente importanti, sono degli atleti a tutti gli effetti, gli esports, in particolar modo i giochi della Blizzard, quindi StarCraft 2 e Warcraft 3. StarCraft 2 e Warcraft 3 sono estremamente popolari al punto che i giocatori sono delle vere e proprie star televisive e non solo. E volevo semplicemente passare un contributo per spiegare come però sia diventare un giocatore professionista, giocare ad alto livello, non sia affatto semplice. In particolar modo, da diverso tempo ormai, da diversi anni, è stata introdotta una unità di misura della capacità di gestire un gioco da parte del giocatore, che si chiama APM, che sta per Actions Per Minute, ovvero sia il numero di azioni al minuto che un giocatore riesce a compiere. Con azioni si intendono click di tastiera, spostamenti del mouse, click del mouse. Ci sarebbe, ovviamente si dovrebbe vedere quanti di quei click, di quelle battute di tasti vengono fatti in maniera utile, quindi qual è la percentuale di battute utili e di battute inutili. Se però se ne fanno anche di inutili, vuol dire che si ha il gioco veramente sotto controllo, e giocatori più bravi riescono a superare le 300 azioni per minuto. Per darvi idea, per l'appunto, di come funziona questa cosa, vi faccio vedere questo piccolo video che è stato estratto da un più lungo servizio realizzato da non mi ricordo chi, online, si trova su YouTube. Ecco a voi. 좀 빨리 한다고 뭐 그런 것도 연습하고 뭐 오리주머니 같다. 예, 그런 것도 전에는 지금은 처음 때는 지금은 그냥 꾸준히 연습하는 게 제일인 것 같아요. 그냥 보통에서 좀 약간 빠른 정도? 예, 많이 빠르진 않고요. 그 스타에 비해서 머슬리는 그렇게 손이 굳이 손빠르게 빨리 할 필요가 없거든요. Rieccoci qua. Di nuovo col ritorno, eh? Vediamo, ok. Forse ce ne siamo liberati. Basi? Ok. Insomma, che ne dite, eh? Si muovono velocemente sti disgraziati. Io dico proprio di sì, e credo anche che sia il motivo per cui i più grandi campioni di videogiochi allo stato attuale sono tutti molto giovani. Ci vuole una incredibile costanza nella pratica, una incredibile coordinazione occhio-mano. Non è semplice diventare un giocatore professionista, al contrario di quanti potrebbero pensare. Va bene, io direi che passerei l'ultimo pezzo di oggi, appena lo trovo. Ma sì, facciamo così. Loro sono, li ho già passati qualche altra volta, credo. Anzi, senza credo, sono sicuro di averli passati un'altra volta. Ecco che forse ce la facciamo. Ok. Loro sono i Loud Dog e questo è il loro singolo Gone. Here is something that you can't understand, my friend. Watch it, watch that. One more time, watch out. I got into the situation, man. You can get along when you get your heart away. Just the water when you don't mean what you say. Wow. Listen up, come on, run the trap. Yeah, it's gone, yeah, it's gone. Yeah, it's gone, yeah, it's gone. I'm afraid it won't come back again. Yeah, it's gone, yeah, it's gone, yeah, it's gone, yeah, it's gone. You're to blame for taking it away. I thought you'd be my girl, together we would rock this world. But all you did was make me hurt us. You'd like to lift your skirt and I wonder why you did this to me. Cause now our love is history, and all I can say now is that it's gone. Because it's gone, gone, gone, gone. Yeah, it's gone. Love's not what I get. I'll give you some attention. I'll even give you more fun. But there's one thing you won't receive. Baby, I can't give no love. Yeah, but it is gone. Yeah, it's gone. Yeah, it's gone. Yeah, it's gone. You're to blame for taking my love. Yeah, it's gone. Yeah, it's gone. Eccoci qua. Va bene, va bene. Questa era veramente l'ultimo pezzo. Io direi che tutto sommato, via, come prima puntata live, non è andata poi così malaccio. Devo assolutamente ricominciare a prepararmi un po' meglio sui pezzi, su quello che voglio dire, perché quando si è da soli o si fa così o si fa così. Non è possibile. Non è come quando hai una spalla con cui puoi chiacchierare, sparare cazzate, lui ti risponde, allora tu rispondi e si continua, si chiacchiera, si costruisce il discorso da soli, è davvero difficile. Quindi, ragazzi, a belly. Sa vedemo. Alla prossima. Sappiate che ho anch'io una intervista fatta ad un mio amico musicista di Firenze, che passerò, spero, intorno a quella metà di questa settimana o il fine settimana prossimo. Sarà ovviamente il tutto offline, non live, ma io mi sono divertito molto perché era da tanto tempo che non lo sentivo, e così abbiamo fatto quattro chiacchiere sul suo